non me lo ricordavo così, non si è sentito nessuno. No, sì, era anche il furgone, sto facendo chiamate niente, nessuno. Tutto Marco, io non intendo per niente, boh, se non sta male. No, guarda perché sta di male, magari c'è altre cose. No, non è passato tutti i giorni. Non stava bene ultimamente, boh. Era un po' messo male di stomaco. Poi da lì, non è niente arrivato. Genio. Io stavo uscito. E dove stai andando? Sto accompagnando la moglie a cucinare le cose. Sono qua all'ingresso di Porta Torres. Gappa. Sì, dentro Porta Torres. Gappa. Arrivi. Attento Claudio, la fortuna. Ehi, a fortuna. Ciao Claudio, buonasera. Sono qua a Sassa Pedanile, che stavo. Ascolta, dammi il controllo. Santiago Radio, dai. Questa è molto meglio di quella di ieri, la radio. 5 amplificata. Segnale più di 8. Cappa. Perché mi sono chiamato tutto. Ho cambiato trattore. Dunque ho portato linea nuova. Senza toccare quella che ha la Iveco, perché la Iveco monta tutto a 24 volt. No, va bene, fortuna adesso. Santiago 9, Radio 5, sì. Eia, ok, dai. Cla, chiudo perché ne ho le palle in terra, dai. E ci sentiamo. Un bacione grande, Cla. Grazie, anche a te, fortuna. Lingua, ciao. Disgraziato. Ciao, fortuna, un bacio grande, ciao. Cosa c'è oggi? E a Polaro cosa stai facendo? Con la zona che mi viene una cosa. quindi, ma il cavo adesso ce l'ha. Se, ascolta, dov'è che questo negozio? A Milano? L'aria dell'elettronica. Tre giorni lavorativi ci mette, dal giorno che spediscono. Ma non hai capito cosa l'hanno fatto, Massimiliano? Hanno preso l'ordine senza dire che avevano l'antenna in sede e il cavo no, capito? Per non perdere l'ordine. E lui pensava, mi ha detto, vedi, non hai finito nulla. Invece, se fosse stata una della serie, siccome la ieri elettronica ha sempre fatto queste cose, no. Hanno preso l'ordine e non gli hanno detto niente. Bastava dire, guarda, l'antenna ce l'abbiamo in sede, il cavo sta arrivando. Cosa facciamo? Aspettiamo oppure le spediamo solo l'antenna? Capito? Un cavo l'abbiamo avuto noi, in qualche maniera, capito? Quindi, siamo presi soldi senza dire che eravamo senza cavo. Infatti, almeno l'antenna, poi il cavo, magari momentaneamente avrebbe messo 1,58€, ma fa Napoli, tanto da bene, capito? No, Massimiliano, chi momentaneamente non ce n'è. Mi devo mettere il cavo e non puoi farla che farà. Non so se hai visto il lavoro, ma lì bisogna agganciare, fascettare tutto e non possiamo poi riscendere tutto e cambiare il cavo. Fisso quello, fisso. No, non l'ho visto io, quindi non lo so come va. Sì, vabbè. Comunque, se spediscono oggi è mercoledì, giovedì, a lunedì. Non me l'ha fatto, l'ha giocata in sull'Aigano e mi ha fregato la le dovevi dire alla signorina o al signore che sia, le dovevi dire, ascolta, a me dammi il numero tracking, capito, della spedizione, così guardo dov'è. Invece non te l'hanno mandato, vuol dire che non hanno spedito. Non me l'hanno mandato tutti in tutto. Che arriva più tardi di venerdì, ci non hanno il capo. Guarda, quel capo deve arrivare lunedì a loro. Mi sono già arrivato, se non avete arrivato da domani o dopo domani. Ma tu a te, Natalino, ti conviene chiamarle e gli dici, ascolti, siccome è stata spedita della merce a mio nome, o a nome di chiunque hai ordinato, le dici, mi scusi, mi può dare il numero di tracciabilità, se mi guardo il nome della spedizione. Se loro non te lo danno vuol dire che non hanno spedito nulla. E torra. Beh, cosa tieni dopo la telefonata di fuoco? Tanto loro prima o poi la merce la dovranno spedire, è inutile fare partacce, Natalie, fregatene. Tanto mia, anche il tempo non è granché. Poi migliorerà sicuramente il tempo. Infatti io cosa faccio prima? Io chiedo, avete disponibile questo, questo e questo? Se l'avete disponibile in negozio, sì, allora spedite. Capito? Chiedo prima però, l'avete disponibile in negozio a spedire? Sì, allora spedite, pago e spedisco. No, scusa, questo caso ragiona a Natalino, perché io telefono, ok, siccome ripeto e ribadisco a tutti, la IL elettronica ha sempre fatto questi giochi di Caruso, perché l'ha fatto anche a me anni or sono, ok, per non perdere il cliente, loro non ti dicono se il materiale è lì o se non è lì, ok, quindi Natalino chiama, dice buonasera, devo ordinare, mi servirebbe un'antenna tipo tot e 50 metri di cavo, ah, va bene, ok, ci faccia, loro ti dicono, ci faccia il pagamento, PostiPay, PayPal, BBA, che le spediamo la merce, va bene, ve lo faccio, Natalino le fa il pagamento, loro incassano i soldi, però non gli hanno detto, quindi gli scorretti sono loro, non Natalino che non ha chiesto, attenzione, lo scorretto è quello della elettronica, perché quando Natalino ha fatto l'ordine dovrebbe dire, guardi, caro cliente, ok, noi abbiamo in sede l'antenna, però purtroppo ci manca il cavo, ci arriva lunedì, va bene? Quindi cosa facciamo? Le spediamo l'antenna oppure le spediamo tutte assieme? E lui doveva decidere che cosa fare, non che tu ti prendi i miei soldi, te li tieni una settimana, ok, non mi mandi la merce, questo non va bene. Quindi ha ragione Natalino, perché io avrei fatto la stessa cosa. Io aspetto, loro hanno detto che la merce a Natalino gli arriva domani o dopodomani. Se domani o dopodomani non arriva, io non gli avrei ritirato più, ok? Non può arrivare né domani né dopodomani. A me sono concesso che spediscano oggi, gli arriva lunedì con SDA. Capito? Ragazzi, io vi ascolto, rimango volentieri qua a ascoltarvi, ma c'è mia figlia che sta male. Rimango qua, là. Vi ascolto volentieri, però là. Lo riprendo dopo se possibile. Ehi, Massimia, dopo, vediamo la ciangaia, cosa c'ha? Sì, mal di gola, mal di testa, sono di ciatto, là. Che mia moglie è uscita e lei è qua. Dai, ci sentiamo dopo. Va bene, dai, cose dei bambini. Non problema. Va bene, Massimia, ci sentiamo dopo. Eia, tutto quello che vuoi, Marco, va bene, la stessa cosa ho detto io, sono loro, hanno detto a Natalino, che la merce arriva domani o dopodomani, vuol dire che c'è qualcosa che non va, ok? Se non arriva domani o dopodomani, arriva non ritirarmi, scusami, a prescindere da tutto, no? Ok? Però ti ripeto, ribadisco che la IL elettronica, negli anni, ok? Ha sempre fatto questi giochi di Caruso, va bene? Quindi se l'ha portato sempre appresso questo gioco di prendere i soldi al cliente e mandare la merce quando arriva, no? Io te l'ho ordinato adesso e tu me la spedisci adesso, va bene? Quindi ha ragione Natalino, punto. Chiuso il discorso. Chi è che voleva entrare? Valeria? Stavo dicendo che la ditta Trullallera, dai, con tutte le ditte che sono perfette, è andata a prendere proprio quella. Oh, io da ieri ho sempre comprato, la roba è arrivata subito, avevano sempre tutto disponibile, ma perché? Perché io intelligentemente chiamavo prima, dicevo, è immediatamente disponibile, sì, allora spedite. Natalino non ha chiesto prima se, la, se il cavo era disponibile, l'antenna, è chiaro che ci sono dei sguidi. E appigliale in culo. Infatti, sono stati scorretti Marco, sono stati scorretti, a prescindere, io non sono, per cui ce l'hai, non me ne frega, io ti sto facendo l'ordine, tu, che sei azienda, mi devi dire, sì ce l'abbiamo disponibile, però non abbiamo disponibile il cavo, cosa fa, aspetta oppure le mandiamo solo l'antenna? Cioè, io all'elettronica li avevo già cancellati da anni, però tu qualsiasi azienda chiami, la merce ce l'hanno magari, no? Non è che la devono ordinare, non è così che funziona. Vabbè, ciao vale, buonasera, ben sentito. Vediamo se c'è Eugenio, anche Eugenio. Sì che ti sento, forte chiasso. Vabbè, vabbè, dai, non futti di niente, aspetta sino a giovedì, venerdì, poi vediamo cosa succede. Se richiami, dille, per cortesia mi dia il numero della spedizione, dille così già lo sanno loro cosa ti onora. Se non te lo danno vuol dire non è finito nulla, capito? Va bene, avanti Marco. Eia, nel frattempo noi abbiamo perso un altro gatto. In teoria da, o si è imboscato in qualche parte della casa a dormire oppure è caduto dalla finestra. E quindi bisogna stare tutto da campo a cercare il gatto, insomma, tutto per la mania di tenere la finestra aperta. Oppure ci mettiamo una rete come volevo fare io. La finestra è larga 1,20. La metto in modo che sia, cioè se il gatto cade non cade, rimane nella rete, capito? Gli fa la protezione. Vabbè. Bene, bene. Ma tante ditte lo fanno mie, anche su eBay, molte ditte di eBay, anche che non siano elettronica, siano altre cose. Prima vedi disponibile, no? Poi ordini, dice, ma non ce l'abbiamo magazzino, e allora perché avete messo, che ne so, 10 pezzi disponibili? E allora, vabbè, in quel caso dicevo, spedite appena arriva, appena possibile spedite, è tutto lì. Cioè se una cosa mi serve tanto, Natalia non fare la cosa che non ritiri la roba, perché cosa ne ottieni? I soldi li hai già dati, la roba la devi ritirare quando arriva, se no, se non la ritiri cosa succede? La rispediscono indietro, tu rimani senza antenna, senza cavo e ti deve ripagare poi un'altra spedizione, perché te la mandino di nuovo a te. Ma no, voglio manco spedire gliela faccio, se no non la spedita, non la lì, non la faccio mai più. E quindi rimani senza antenna e senza cavo, e cosa ne ottieni? Se me la prendo da un'altra parte, dico sì, se mi fanno spedire non la voglio più. Vabbè. Anche quello è vero, si può fare anche così, ma io non ho mai fatto certe sparate ai venditori, no? Non serve a niente. Hai ragione, mi, te l'ho detto cosa ci vuole, l'asino della crucca, mi fa passare tutte le preoccupazioni. Perché io ti volevo portare a te alla crucca, così non ci facevo la passata e guarda, volevo venire subito. Leia, mi passavano anche i capelli bianchi, e piano piano i capelli bianchi stanno arrivando, non si vedono ma ci sono. Accidenti, pure per questo gatto, poi questa è molto paurosa, quindi ce la troviamo domani, mamma mia, palle. Ma ieri. Chi eravate? Quanti eravate? Perché eravate? Per i tessi eravamo, ci mancavi tu. Ma io non riesco a comprendere se fai i gatti volanti tu. Questi gatti che volano dalla finestra. No. secondo me sono gatti incrociati con pipistrelli. Vale, questi gatti volanti li hai mai visti tu, che si lanciano dalla finestra? Balla, veramente, buonasera a tutti comunque, buonasera, buonasera. No, non ne ho mai visto, sarà qualche incrocio, con gatta, con gatta, o là. Ma come si chiama? Sono dei gatti incrociati con la tappignara. Chi è che voleva entrare? Sentito sotto Valerio, chi è? Ma tu hai parlato a Natalia? Ma adesso che già lo stanno, anche la mia gatta è subito dalla finestra, lo stanno. Non so, ma lui è già recidivo, non capito, i gatti che si buttano alla finestra. Vabbè, dai Marco, devi guardare sotto, perché una volta che poi cadono, si spaventano tantissimo e si nascondono, capito? Si nascondono. Sì, sì, perché non lo fanno apposta. Cadono, metti che si, non lo so, che si stiano grattando da qualche parte, si sbilanciano e cadono. Non lo fanno apposta, anzi hanno paura di cadere. Poi questa è particolarmente paurosa di gattina, figurati, mamma mia. Però se qualcuna lasciasse la finestra chiusa invece di lasciarla sempre aperta anche di notte, queste cose non succederebbero, siccome dice, ma i gatti piace guardare. Lascia di guardare, però ogni tanto qualcuno strampa, è giù, che dobbiamo fare? Piace guardare, faccio di morire in freddo perché il gatto per guardare la finestra. Aleluia, ho come il forro la iatta io, per carità. Via, sì, qua in pieno inverno finestre aperte, una corrente da morire, e purtroppo fissazioni degli anziani, dai. La aterosclerosi che avanza, chi lo sa. No, mi fai girare, dai, c'è anche Valerio, c'è Eugenio, secondo me è lontano, arrivo subito. Una volta il cavo da chi è che l'avevo preso? Ah, io l'avevo comprato da Media, forse Media Globe, non me lo ricordo, sono passati ormai 2 anni, non me lo ricordo nemmeno più. Bella una tassona a 60 metri, è arrivato un rotolo di legno, no? Un rocchetto di legno grande, con 60 metri di cavo, Natalia. Bello, bello però. E rispetto alla DC-58 è una bella bestia quel cavo. Devo mettere quello perfetto. Eppure insisto, che io, dico io che ho 50 metri, avrei preso l'H1000, poi che fosse più duro, pazienza, e avrei fatto una specie di coso a bello curvato che sostiene il cavo, e avrei un cavo più bello teccio, da meno perdita. Lascia cambiarla, non fa, diciamo quando si rovinerà il cavo e l'antenna, cambierò il cavo e l'antenna, dai. Però per adesso deve durare almeno 10 anni, anche 20 se ci dura. Ogni giorno, adesso me ne vado e me ne corico, me ne vado e mi corico, mi accendo la televisione e il baracchino se la piglia in queste ore. Che cosa? Se tu fai così io vengo lì e tu ci la toppa, caricato a pallettone, non a palla, a pallettone, così io faccio il massimo danno con il minor divertizio. Claudio, ho detto no, adesso mi è venuto sbadiglio, ho detto adesso vado là, mi corico e mi accendo la TV, altro che baracchino, e faccio un sonno. Che sono stanco, sti giorni sono un po' stanco, no, poi aspetto 7:30, poi mi porto il cane, e poi vi saluto, non sono le 8, per cui erano 4:30 inizia, c'è la partita oggi Napoli-Juventus Coppa Italia. E quindi guardo la partita, è così, e c'è freddo io, c'è freddo, c'è riscaldamento acceso ma c'è con la finestra, non ci sono più 20 gradi dentro casa. immaginati se un giorno venissi con te di mattina, cioè alzarsi a quell'ora, uscire, andare dove vuoi tu, seguirti proprio dove stai tu. Io dico che tornerei a casa che non posso né parlare né camminare dallo shock, si è alzata presto, mi devo accompagnare a casa in barella. Sì, facciamo il freddo, lavoro io, facciamo il freddo, stamattina c'era freddo, non mi ho tolto più un botto per niente. Guarda, io mi alzo alle 5 per la mattina, 5 e 10, 5 e un quarto, invece meno 10 sto uscendo, fate il conto, ho la sorso, prendo la macchina in servizio, deposito e via a macinare altre 100 km, capite? Esco a luglio e faccio proprio un'oretta così, dopo pranzo mi traio un divano, poi mi rilasso, mi addormento, ma capite? E così, vabbè, l'abitudine, ma quando ero turista facevo i turni a Perfuasi, entravo alle 6, quindi uscivo alle 5.10, 5.15, fermavo a Brescia, prendevo un caffè velocissimo e poi via, 50 km prima di arrivare al lavoro. Questione di feeling, questione di feeling, così è. Sì, io quando non so quale essere io, e non sapevo mai a che ora dovevo uscire, perché l'ultimo che se ne andava ero io. Sì, tu, quando ci avevate l'attività, ti avevi preso lo stesso? Io alle 3, alle 4, e così, e se no la vostra volta era venuta di Banca di Cagliari, ma mi ha fatto fare il viaggio di Manzano, e mi ha capitato con la da Cagliari, e ha fatto Carlo, e si dice, non si gioco di un razzo, ma il tuo carro che si fa bene, e mi ha fatto la vita e si mandava a fare i gassi sui, anche mamma mi ha assunto un po' la stanchezza. No, guidando ci vuole passione, ma soprattutto ci vuole anche il riposo, capite? Ci vuole anche il riposo, no, una cosa che funziona così, vabbè, comunque, ognuno c'è i suoi orari di lavoro, purtroppo così, va bene, vediamo Genio, vabbè, Genio! Sì! Sì. Adesso sono andato fermo per la torre, qua. Mi fermo per la torre, c'è l'ombra. Mi è interessato. Mi è interessato, mi sono a casa di mamma, sì. Io non faccio una sorella. Gappa, gappa. Vabbè. Ma vedi benissimo, lo senti Eugenio, ma... Sì, sì. Marco! Io... Forse lui non mi sente. Sì, io ti sento. Basta, ma già ti sento. Mi senti tu a me? Hai a voglia. Santiago 7. Dimmi tutto. Aspetta un attimo. Andiamo, aspettate un attimo. Oh, ma Napoli-Juve non l'avevano già fatta. Campionato, hanno pareggiato. Questa è la semifinale di Coppa Italia. Ieri ha giocato Roma-Lazio. Si è qualificata la Lazio per la finale. Oggi la vincente gioca in finale con la Lazio. E cioè la Juve giocherà con la Lazio? Non lo so, a Napoli viene un po' in salita perché è a Napoli, infatti giochiamo. A Torino ha perso Napoli 2-0 in Coppa Italia. Capite, il campionato l'ha pareggiato. Quindi Napoli deve vincere o 2-0 o 3-1. Oh, troppi sbadigli mi stanno venendo, adesso ne sono... Boh. Non lo so, troppe correnti d'aria in questa casa, boh. Mi devo ammalare, sono macchini, va. Sul 3-1 si mette il bisogno della casa. Se la Juve fa un gol, sono tutti, se no dove vince 2-0 il Napoli. Sarà sicuramente una bella partita, se non si sceglie te già ne dovrà. La prossima settimana c'è Juventus Barcellona, Champions League. E poi è tosta. messaggio ho preso. Vabbè. Beh, signore, buonanotte. Chiamatemi quando l'antenna arriva, io. No, c'è corrente qua, c'è freddo. Lo chiudo, solo che poi quella lì me lo riapre, mi devo. Mi fa schiattare, mi fa. E mi sa, ci metto l'attacco. E allora, Marco, dimmi tutto. Io sono qua, E io, anch'io sono qua. Sono anche al freddo, infatti mi è menato. La stazione non ce l'ho, sì, c'è fresco in questa stanza. Non è solo questione di corrente, perché anche se chiudi qua c'è sempre più freddo. Sono spifferi, c'è il cavo per l'antenna UHF lì che passa tra le antenne della finestra, un po' di spiffero c'è, dai, perciò c'è freddo. Un bel monolocale. L'altra volta ho visto, c'è mia zia che c'ha questo monolocale tipo sommergibile, no? Tutto di lungo è sviluppato. I soffitti sono belli bassi, mi si scalda in un attimo quella casa. Forse sono bassi perché non c'è l'abitabilità, ma finché è di famiglia. I soffitti bassi si scaldano un attimo, un bijou. Ehi, LG, casa piccola. L'antenna e il baracchino, casino metterla lì. Mamma mia, c'hanno la centralizzata. Bisognerebbe spodestare la centralizzata dal gabbiotto del palazzo e metterla sul bordo verso Monte Oro. E al gabbiotto mettere un'antenna, capito? In modo che sia dietro l'antenna del baracchino, è in alto, più in alto. Ciao ragazzi, sto uscendo, ciao, a domani. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao Giulio, ma c'era Giulio in ruota o è entrato adesso? No, sono appena rientrato, sto uscendo di nuovo. Ciao a tutti, ciao qua, a domani. Speriamo bene stanotte, ciao. Speriamo bene, incrociamo le dita. Ciao Giù, ci sentiamo. Posso guffare? E guffa tua sorella. Uscia proprio che io. No, non dico niente, non dico niente. Il pindaccio sì, puro. No, sono credenze popolari. Guarda, Napoli e Juventus sono state sempre grandi lotte. Ti ripeto, il campionato hanno pareggiato tutte e due. Perché tu devi tenere conto di una cosa, per questo non ci sono dubbi, è scritto in tutti i giornali, ok? La Juve è la migliore difesa d'Europa, ok? Nessuna squadra ha la difesa della Juventus, né italiana né straniera, va bene, d'Europa. Tanto è vero che il Barcellona non è temibile, perché ha molto attacco, ma difesa non ne ha. Quindi è probabile pure che prenda colpi anche il Barcellona, la Juve. Il Napoli ha segnato quel gol, perché purtroppo Allegri ha dovuto mettere Lemina al posto di Barzagli. Se ci fosse stato Barzagli non avrebbe fatto quel gol. Sì, che mi sembra di segnato, non l'avrebbe fatto, Guido non l'avrebbe fatto, però purtroppo ho dovuto mettere a Lemina, che non è un grande difensore, e quindi abbiamo preso il gol, capito? Però in campionato con la squadra come gioca oggi, cioè all'andata, questo è il ritorno di Coppa Italia, all'andata con la squadra al completo, il difensore della nazionale italiana, Chiellini, Bonucci e Barzagli, hanno perso 2-0 in Napoli, capito? Vabbè, non me ne intendo di queste cose. Dai. Va bene. Aspetta, chiedo se qua c'è da mangiare, vediamo. Non voglio mangiare alle 8:30, è troppo tardi. Sì, vabbè, tu non sei amante del calcio, non sei amante di quello, non sei amante di nulla, non sei amante di giù. gatto bubuto e dal letto. Ma lei ci sia ancora? No, ma lei non c'è. Vero, ma carino, lui è amante solo del gatto bubuto e del vino. Non ama altro lui. Mangiare e dormire. Non segue il calcio, non segue niente. Segue quelle due rimbombanti che ci sono alla TV e basta. E allora, la vita è andata a poco, fa lui, cosa hai detto, genio? Quindi pure volta Napoli, vai. Però io non puoi salire a Napoli perché poi tu vinci 3-0, se il gol non mi fa la Juve, non ti preoccupare. Allora io sì, dopo ho messo giù un bottino più pesante, perché? Perché così, perché? Penso che ci siano problemi. comunque prima mi chiamavo Snoopy, dai, Franco Snoopy, sono nato come Snoopy. Franco Snoopy, è il marito di Ombra. E lui non ti sente, tu lo senti ma lui non ti sente, non ti accoppia, capito? Tutto a posto, fra? Sì, tutto a posto, cioè, non ci lamentiamo, dai, e tu, e voi anzi. E noi ci tiriamo avanti, fra, ci tiriamo avanti, già va bene, dai, linea di massima, già va bene, già va bene, si lavora, si va avanti come pensionati. Oramai non è pensionata, quindi si va avanti come pensionati. E addirittura, dai, siete giovani ancora. Perché fra, non è più grande, se riesco a andarmene un paio d'anni, sto cercando di far di tutto, ma è vero, non ce la faccio più a stare, non è tornando. Ehi, quello anch'io me ne andrei ieri, non domani, però cosa vuoi fare, ancora ne abbiamo da fare, buh. Io fra 2 anni faccio 42 anni di contributi, fra. Non so se sono più grande di te, non abbiamo la stessa età, non mi ricordo, ma io fra 2 anni faccio 42 anni di contributi, esatti, perché ho iniziato che avevo 16 anni a lavorare, quindi assicurato, c'ho tutto, infatti mi hanno dato 2 anni, se mi avrei avuto 38, però mi hanno dato 2 anni perché ho iniziato a lavorare a 16 anni, essendo orfano di padre, e quindi se ci riesco me ne vado. 60 anni dovrei essere in pensione, se ce la faccio, se no attiene. No, io ne ho in teoria 38, ma non ce li ho tutti assicurati io, perché anch'io ho iniziato da giovane, però non sono stato assicurato subito. Ti lancio a Natalino, se mi sente. Sì, Natalino, cosa stai facendo? Bene. Sì. No, io ce li ho tutti fra, purtroppo, meglio così, ce li ho tutti perché ho già fatto le misure, ho addirittura anche l'apprendistato, poi 2 anni in militare, come me mi è salita, mi sono saliti tantissimo, 2 anni mi hanno dato in più, da 16 a 18, e va bene, effettivi praticamente io ne avevo 35 fatti. Più sono arrivati tutti queste agevolazioni, se ce la faccio, mi stanno facendo il conteggio, vediamo un po', e poi via, non è un agio più grande, si abbiglia il Lucifer. Ma sì, se puoi, io ti dico così, vai subito, tanto qui, più ci rimane peggio, ecco. No, proprio non ho più voglia di niente, capito, già l'atto, sono un ragazzino che sto lavorando, ho già l'atto, abbastanza, e anche qua ho l'atto, anche più di quello che dovevo dare, rispetto a tanti altri che si vantano, io qui ho l'atto, quindi basta così, va bene, ok, vai, io mi preparo, fra, che devo portare il cane, già lo sai, io c'ho il cane, sono quel fabuio, non se ne vuole rientrare subito, ti saluto, salutami Anna, eccetera eccetera, mi hai capito, Natali, se ci sei ci sentiamo dopo, se ci siete ci sentiamo dopo, vado a portare il cane, ok? Ok, buona passeggiata, a te anche al cagnolino, o col cane grande, non so. Mi sembra che sia un boxer, può essere, se non ricordo male, dai, a più tardi, se posso, intanto mi faccio fare i controlli qua, se ho stazionari, ciao anche a Natalino, ciao. Ciao, no, è un bulldog inglese, c'è anche lo ricordi. Ok, dai, controllati tutto, al limite io chiamo dopo quando risalgo, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, grazie che per i controlli, ciao. Oggi io sono andato a portare il cane, c'è Natalino, ci sentiamo dopo. Allora aspetta un attimo, che torno subito e poi chiacchieriamo. A dopo, ciao a tutti. tutto il passo? Io potevo stare fino a domani. Già, tu lo sai, mio orario, io sono salito adesso. Ma io in radio. Hai letto il messaggio che ti ho mandato? Sì. Potevo stare fino a domani perché ho acceso il garage e invece ci aveva attaccato l'altro, quindi il QRM un po' si sentiva, quindi pensavo che non ci fosse nessuno, ho detto ma almeno che stiamo piazzando l'antenna da Natalino e siano tutti lì, perché non sentivo nessuno e quindi mi sono bruciato tutta la sera aspettando che entrasse qualcuno, chiamando, boh, ha giudito di strada, non c'è nessuno, e invece ci aveva attaccato questo. No, già, siamo da vicini in radio, io, Natalino, entrato Marco. Adesso starà mangiando, c'è Eugenio, c'è Valerio, noi siamo tutta la gente, no? Io alle 8 meno 20 sono andato a portare il cane e mi sto salendo adesso, capito? Sì, vabbè, tanto per salutarvi, dai. Mi dispiace perché ho pensato, ho detto magari sono andati a Natalina a piazzare l'antenna e sono tutti lì. Avanti Natalina, buonasera a tutti comunque, dai, ho fatto un'entrata un po' così. Perché anticipati le dati su? Se tutti precisi, se non viene uno onesto, a me da dire, guarda, nel momento non me lo trovo il capo, ci passerà qualche giorno in più, però già glielo mando, ecco. Sarebbe stato più corretto, no? Perché se no non incascia, ne compreso, se no tu non li mandavi i soldi magari. tutto quanto, sono tutti onesti solo. Oia, per carità. Non mi dai uno che paga tu che scendi. Oia. Vabbè, Natali, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Speriamo che siano onesti a mandartelo adesso. Perché se avete trovato tutti i colori, la verità, ho quasi trovato questi venditori quasi tutti onesti, ne ho trovato uno solo che avevo preso un Alan 48 modificato da loro, allora ha comprato nuovo e lo modificavano loro. Praticamente mi è arrivato modificato, andava tutto bene, di colpo questo Alan 48 non accendeva più. Allora ho chiamato e coso e praticamente mi ha detto che la garanzia era scaduta. Se me ne manda poco. No, la ECA è scaduta, non lo ce l'ho io, la garanzia ce l'abbiamo noi ed è scaduta. La garanzia lui non me l'ha mai mandata di questo apparecchio. E se l'ha tenuta lui, capito? E non me ne ha voluto aggiustare. Infatti cosa ho fatto? L'ho smontato, le ho preso i pezzi che mi servivano e ce l'ha bide lui, ce l'ha giù con paradurato. Sì, è un delinquente quello, anche a Marco aveva fregato, gli aveva mandato un apparato che andava male, gliel'aveva spedito, gliel'ha tenuto per un bel po' in consegna dicendo che lo stava riparando, che l'aveva mandato anzi alla Mitra a riparare direttamente. Marco ha visto che è passato tutto questo tempo, ha chiamato la Mitra e ha detto che loro non gli avevano mandato nessun tipo di ave di questo apparecchio qua. Ce l'ha sgamato, poi l'ha rimandato indietro con lo stesso difetto. Dice che è Franco Montagnani? Mi sa di sì. Magic Fon, quello lì è. Mi sa di sì. E comunque è un grande ladro, un grande bastardo. L'ha fottuto anche a Marco con lui. A me mi aveva mandato un 850. Fortunatamente gli ho chiesto la garanzia. Un 850 era tempo con la scheda audio bruciata. Allora se c'era la radio sentiva nulla, attaccavo la colonia esterna, non sentiva niente, nulla, muto. Ci voleva la smitter che si muoveva ma non c'era audio. Da nessuna parte, né AM, né FM, nulla, niente. Io ho telefonato, no, ma io la radio te lo ascolta, io non si va a vedere nessun disquale, io prendo l'aereo, vengo e ti spacco la testa, non hai capito. Ti sto rimandando indietro. la sacca da Lugiara, manda mi tiro giù di tu. E così ho fatto, me l'ha cambiata la scheda. Sì, ma c'è gente molto disonesta, Claudio. E se no la voce che sta depurando tutti di là, a me, a Maestrale, a te e poi a che cazzo era successo. Ci avevano fregato un sacco di soldi. A me a Maestrale 200 euro, a Salvatore, 200 euro a testa. A Claudio mi pare 400. 400, 700. E ne ho recuperato 400, 700. Capito? Provincia di Napoli, ma avrei mandato un mattone. Che bastardi. Infatti io su eBay non ho più comprato, compro solo nei negozi e basta, non compro più da privati, non mi fido più. E poi il bello che ero al telefono con Salvatore, e Salvatore mi ha detto questa storia che è andato alla postale e gli aveva detto che era una truffa. E stavamo parlando, mia moglie mi ha sentito e mi ha detto non sai come fare a buttare i soldi, 200 euro buttati e regalati alla gente che potevi comprare qualcosa a tuo figlio, cazzo, ma pure ubriaco. E così, infatti io sui miei non ho più ordinato niente, assolutamente, mi è andata bene qualche volta, ho fatto gli ordini così piccoli, mi è andata bene, ma radio mai più, sempre usate, da garantite, da negozi, sì, come la Iaeso, eccetera, se no niente, assolutamente più niente, capito già. E io lo conosco a Franco Montagnani, non ti preoccupare, conosciuto anche di persone in fiera, che ho fatto con la buona di Vittore, Vittore Lai, capito? E poi lo stendo, mi sono avvicinato, e l'avevo letto, mi ho presentato e tutto, ma sai, può capitare, no, non può capitare niente. Io ti ho chiesto una radio e tu mi hai detto come nuova, perché effettivamente era una nuova, la fiammata. Allora se me la porta a posto, no, ma la io l'elettronica, anni o sono, Gianni, faceva questi giochi di Caruso, per non perdere il cliente, se per ricordo, allora c'era Marco, il telefonato rispondeva a questo Marco, molto insomma, così, giocherello, eccetera. E cosa facevano loro? Prendevano gli ordini per attirarsi il cliente, però non ti dicevano l'ordine che tu facevi se ce l'avevano in sede. Ti dicevano va bene, prendevano i soldi, poi passavano 2, 3, 4 giorni, tu dici, già, a me non è arrivato niente, ci siamo dimenticati, niente, lo sai, non abbiamo ancora spedito perché manca, per dire, un microfono, manca quello che ti avevi ordinato. Ce l'abbiamo in ordine e abbiamo un po' di pazienza, intanto già nel bilancio di nave, ci hanno fatto una talina, una volta si goce. Pensavo che era passato questo gioco, invece continuano, capito? Perché se una ditta in serie ti dice, guardi, l'ordine va bene, noi lo prendiamo, però abbiamo solo l'antenna, il cavolo c'è, arriva lunedì, cosa facciamo? Lo spediamo solo l'antenna oppure aspetta, invece mani di voluta. Vabbè, se si tratta di pochi giorni non è niente di che, là. Si tratta di 2 giorni, Natalino. Sopporta per 2 giorni, ma è una questione di correttezza proprio, di serietà della ditta. Dovrebbero dirlo, guarda, nel momento non ce l'abbiamo in casa, lo ordiniamo e fra 2 giorni ti arriva, ecco, o fra 3 giorni, la prossima settimana, però almeno dirlo. Zitto, Tyson. Stiamo facendo un cane che fura. Vieni qua. Vabbè, questione di correttezza, mi sa che la correttezza c'è un po' che a villa. Capito? Io ho avuto a che fare con la CSOM e c'era una correttezza allucinante. Capito? Quando abbiamo dato la radio, ma qua noi accettiamo la radio, la mettiamo a riparazione, facciamo l'ordine di riparazione, le mandiamo la copia via mail, però deve avere pazienza perché radio a riparare ne abbiamo tante. E così hanno fatto, capito? Addirittura mi hanno telefonato, hanno detto guardi, non ne vale la pena ripararla, perché ha preso un bel colpo di elettrostatica, è diventato un fulmine. E mi hanno fatto la proposta, cioè cosa facciamo? 50 ampere dell'alimentatore con la, come ti chiamava, come servivo io, non a mano, mica nel nome. Vabbè, comunque cazzo, glielo rispetto due o tre volte perché entrava in protezione da dietro, uno, come l'abbiamo attaccato, si è sentito odore di bruciato, ed era difettoso, e si è bruciato. Glielo mandato indietro, ma sicuro che la tensione, ma si è vedata cosa attaccata, si è bruciato, come ha attaccato la spina, ha fatto puff, puff, proprio cazzo crepato. Me l'ha rimandato un altro. Quello lì entrava in protezione, l'ho rimandato indietro, me ne ha mandato un'altra ancora, entrava in protezione anche quello. E poi me l'ha spiegato Vittorio, che dice che questi apparecchi, quando li attacchi molti apparecchi insieme, prima di attaccare l'alimentatore va in protezione. Allora qui devi spegnere tutti gli apparecchi e poi attaccare l'alimentatore, così non entra in protezione. Tecnocomunicazioni, adesso si è bastardita quella di prima, quando c'era il marito che era in gamba, ti spiegava, ti diceva che apparato c'ha, c'ho per dire il Cobra, allora gli faccio gli attacchi per il Cobra al microfono prima di mandarlo, va bene, ok, arrivederci, arrivava al microfono con gli attacchi già fatti, tu l'attaccavi e funzionava. Ho ordinato l'MC60 usato, no? E gli ho detto, va bene, ok, certo era anche abbordabile, mi ha mandato l'MC60 senza connessione, senza attacco, senza cappetto, il cappetto quello che c'è in dotazione suo, perché tu lo compri nuovo è in dotazione, no? Quello che c'è dal piantone alla cassa c'era attaccato, e poi l'altro invece no, quello che va alla radio, quello spiralato, che costa un 20-25 euro. Ci diamo, ha detto, scusi, mi ha mandato l'MC60 senza cappetto, ma il cappetto a parte, come? Gli ho detto a parte, e mi faccio vedere dov'è che lo prendono a parte, dov'è che lei compra un MC60 senza cappetto. Ho detto, mi mandi immediatamente il cappetto e non le pago neanche il trasporto, niente, se no mi sto denunciando per truffa, invece me l'ha rimandato, non gli ho più ordinato niente. No, quello lì come trattava molto bene, dico la verità, il marito sì, ma poi dopo che si sono separati, che ha preso l'altro tecnico, il marito addirittura quello che mi ha fatto bere il 140, quello buono, quello che è arrivato, che era un bello, nuovo, nuovo, e mi ha detto, guarda, l'MC60 ce l'ho, ma conoscendo ti dice, non te lo mando perché è un po' consumato dove premi il tasto, se vuoi te lo mando nuovo, costa 170 euro, te lo mando nuovo, le dico, vabbè, mandamelo nuovo, perché non è quello roba consumata, lo sapevo che mi dicevi così, e mi ha mandato quello lì, 300 euro, l'apparato, più l'MC60, 370 euro. L'MC60 li ho sempre presi nuovi, 130, il più che ho comprato è 135, ma quello del genere, vabbè, facevano lo sconto, vabbè, non lo prendevo io, però c'è fare giù lì, si dite, ma ieri era una di quelle, si chiamava i soldi e poi così, da. è andata bene, diciamo che si è mosso il tempo e si è mosso bene, anche perché c'è parecchie conoscenze, quindi si è mosso subito, ti muovi subito, non vedi a tempo che la roba va là fuori, e infatti l'hanno trovata ancora dove l'avevano messa, capito? Beh, credo quando entra la scientifica a casa ci sono impronte digitali, i cilindri vengono direttamente a casa due pigliati, non pensare che stanno lì a perdere tempo, e lì c'è un furto con scasso, non è mucha di gioca. Ah no, e da dove sono entrati? Dalla finestra? Sì, dalla vetrata del giardino. Un casino è adesso, non conviene lasciare niente a portata di mano. Già, sono questi calcoli così, io stesso, adesso un po' male viene a casa nuova, perché quando vedi che su gradi ha su 1,50 m, 70 kg, c'è il peso a canario nel giardino, c'è Filippo, molto probabilmente ne metteranno anche un altro, quindi un po' male a cane sciolto così mi viene un po' male. Lo so, ma ci sono quei bastardi che magari te lo ammazzano il cane, te lo sparano, lo accoltellano, è successo già altre volte, il cane va a saltare addosso, dentro il coltello lo ammazza. Bisogna vedere anche che tipi di ladri sono, se sono ladri di galline allora sì, ma se sono di quelli professionisti sono ben organizzati, o li dati del boccone, ma se i cani sono addestrati a non prendere niente da terra non ne toccano boccone. Non tocca niente, assolutamente. Il mio, l'abbassamento dei globuli rossi che ha avuto, come avevi detto tu, avevi ragione, hanno usato un piccione morto da terra, l'hanno usato proprio così, si è avvicinato, l'hanno usato e ha preso subito l'infezione. Se no Filippo non ha toccato niente. Quello di Mario, gli mancava Baraura, non tocca niente, quello non si muove, è destratto adesso. Questo quando è in garage, che mette la macchina in garage, perché è talmente grande che se uno lo tengo a casa, lo tiene in garage, ma vuol vedere come lo tiene in garage. Non ho avvicinato la porta del garage. Solo avvicinato alla porta, nella rampa, nella butta. Immagina già di siete dentro, perché sa che lui deve custodire la macchina del padrone, perché quella è casa sua, non c'è niente da fare. Manco parlando, se sente qualcuno va involontariamente, no? Infatti Mario si incazza, lui dice sempre, non si può, manca se passano via, si fermano a parlare, lui abbaia e ne rampaiana, sicuro la cosa del garage. Ma cosa gli ha fatto? Qualche gratta davanti gli ha messo? Lo lascia aperto il garage, lascia l'osservando aperto a metà, come faceva con la Dusa, gli metteva una gratta davanti e lo lasciava aperto a metà. No, la seranda è tutta abbassata e anche robusta, perché quella è una seranda praticamente di quelle grosse, capito? Con doppia ce la porta all'interno. La seranda è tutta abbassata, sono lui sopra in alto, una volta che lui abbassa c'è la rete praticamente, quella grossa che cammina, insomma una seranda fatta apposta dal fabbro, e poi ci sono quattro finestre aperte con le gratte, capito già? Quattro finestre alte con le gratte dove lui non ci arriva. Scusa che mi si è staccata la cosa dell'alimentazione da presa. Vabbè, sono cani grossi quelli lì e cazzo, che si fondano tutti. Quello di se ci aveva per dire Gianfranco, ci aveva due pastori tedeschi, li teneva in garage a latte dolce. Però il garage li teneva la serranda abbassata a metà e tra la serranda e terra c'era una gratta dove loro potevano avvicinarsi, respirare, così incastrata nella serranda. Ma non era molto, molto sicura secondo me, era solo appoggiata e incastrata e buh, tiravano un colpo e e lampavari tutti in terra se volevano scappare, ma anche Nelson e Rambo erano un po' addestrati bene. Addirittura si aveva comprato questo CD dove ti insegnava addestrare i cani e li aveva addestrati veramente bene. Gli diceva: Nelson, parti, rilanciava la roba, Rambo tu stai fermo, e lui stava fermo, poi diceva: Rambo parti tu, e partiva Rambo e lui si stava fermo, e lui faceva, guarda, li addestrava un bel bene. C'è addestrato un gatto con 25 padroni, non è che no, quello di Mario è così, è troppo bravo per i cani che non si fa avvicinare, non molto diffidente, vabbè, un cane grosso, no, no, se l'hanno passata, ce la porta, ce la serranda in, in coso, quella scorrevole, non c'è la doppia porta dentro. Sopra in alto della serranda c'è questa cosa con la rete grossa, tutta aperta, ma un 80-90 cm, quasi un metro. E poi ci sono quattro finestre aperte con le gratte, strette, e la rete lo stesso, la rete grossa, destinata. Da cucinare tutto quanto, l'ho portato dopo che abbiamo mangiato tutti e due, l'ho portato giù, poi mi sono riposato un po', poi ha telefonato quel cazzo di adesso lo stacco il telefono, quelle ditte telefoniche per vedere se cambiavo, se c'è una nuova offerta, ma chi cavolo se ne frega, è mascidati. No, io dalle 2:30 fino alle 5 il telefono spento, si è appiato 5:30, è spento, anche a me mi hanno chiamato due volte, prima stamattina al lavoro, ascolti, non mi interessa, sto lavorando, arrivederci, poi ho chiamato di nuovo stasera, dopo le 5, capite? Un'altra persona, perché era una voce femminile, stamattina era maschile, allora siamo capiti, io non devo cambiare niente, non mi chiami perché non mi interessa la sua offerta, arrivederci. Molte volte mando subito a fare quel paese, oggi sono stato un po' più educato. No, l'altro giorno ce n'era uno che era di quelli insistenti, registrava due telefono mentre aveva i denti. Dicevo di no e tanto continuava. Bravo là, vi saluto e vi auguro una buon continuo questo, io sto andando, dai. Ciao Natalino, ciao Marco, tutti gli altri che ci sono in ascolto. Rilancio tutto a Natalino e poi fa girare. Ciao già, dai, buona passeggiata, buon tutto, veloci mine e io anche 10 minuti e poi vado a papai e poi ci guardiamo un po' di sport, la partita e se lo bide in gomma le possiamo dire, le chiacchie già ce l'abbiamo fatta anche oggi, un po' di fiacca c'è, inizio settimana, vabbè Marco è un po' così, Gianni è entrato tardi, è sempre impegnato, però beh, già mi è sempre occupato il canale, già riusciamo a farci due chiacchiere, già va bene, già va bene, allora già va bene, già va bene. Valerio mi è sparito, oh Valerio, a te c'è a palla, non c'è, è sparito, è andato a pegnare, stava mangiando lo yogurt, poi state bruciate lo pomo tutta la sera, allora sempre mangiando yogurt, cioccolato, capito, sempre mangiando, poi faccio gli abbinamenti, cazzo, prima si mangia il piatto di lenticchie, le lenticchie che già ti scegli te, cioè a me mi fanno un bel male che ho la colite, si mangia? Cosa pensi che mangia? No, ma magari mangia bene, no? Mangia delle cose anche abbastanza nutrienti, però poi fa questi abbinamenti strani, ci butta sopra il budino. Insomma, se tu mangi un brodino la sera per stare leggero, no? Ok, inutile poi ti mangi lo yogurt assieme al brodo, che già sei morso. Ti mangi lo bulino e poi ti mangi una banana. Poi due cracker con la marmellata, a raffa. Marco mangiando, guarda, lascia aperto. Ma non hai visto che sono andato a mangiare la pizza? Cioè a me piace molto la pizza, però non riesco a mangiarla così, panna e salmone. Tra di notti, lui, sì, c'è lo stomaco ben messo, guarda lui. Guarda, mi digerisce tutto, però non mi sa quando c'è un mare di notte, l'uomo tratta la vasca, è buonino, adesso fa una vita a Stefano, ci andiamo, e anche io, non si finisce mai per approvare, e anche io gli facevamo due risate, sì, se non due allucinate, gli ho fatto a pignare, vabbè, beh, è stata lì, 8:30 sono là, io stacco, vado a cenare, eccetera, eccetera, ti saluto, ci sentiamo domani, non può darsi anche più tardi, non so, se ne ho voglia, saluta mia Concetta, siamo già in 30, ci sentiamo domani, kkk, ma ascolta, sarà dormito, non hai visto che va via il giorno, vai forza, non orari, si alza a mezzogiorno, pranzo alle 6 di sera, poi cena a mezzanotte, si gocca le 3 di manzano, e a rubirci, a ratta di pipistrello, allora, no, ma l'avete l'ha fatto, secondo me si è andato sotto la coperta a guardarsi la TV, capito? La legge la iatta, vabbè, è stata lì, dai. Ci aggiorniamo, fammi sapere se domani ci sono novità, ok? Kkk, va bene, tienimi informato, ciao, passo e chiudo. Sì, non mi domino, non mi...